nessuno! Bello bei! Oui, bello bei! E bello chi? Azzonzo sì! Azzonzo? Se ti sto rispondendo da qua vuol dire che non sono azzonzo, no? E dove sei? A casa? Beh, sono a casa sì. E cosa avete? L'altro giorno eri dove? A San Pietro? Vabbè, ci avevo il portatile appresso, sì. Eia, già sei a vivermi bene, bene, bene. Ma con cane c'è? Oh, non c'è nessuno, non ho sentito nessuno. Boh. Tutti morti, tutti varati, Gesù. Tutti varati all'ovumo. Al Camposanto. Sei confetto. A San Paolo, tutti lì, tutti defunti. Bobo. Luca sarà in giro, sarà al circo. Gio Maria sarà in campagna. Marino sarà con la bionda. Marino sarà dormito a Panzeraccio. E cosa ne sai? Mi stavo guardando la TV io. Domani a voti. Domani dobbiamo andare a votare. Se non vai a votare, cazzo, ti dicono che cazzo sei uno fascista. E non so come cagare a votare, Vota Salvini e ci troverai bene. Mi sa che tu lo dici, quando si faccio il gruzzoletto, faccio come anche gli altri. In genere sono tutti precisi. Ognuno guarda il murino suo. Grazie. Avvedomi. Cazzo. Un cagaito cazzo. Avevo un cazzo come ministro. Io sono tutti così. Dove ne ho un sacca. Tutti promesse. Cazzo sarebbe bene una busciacca. Sparisco. Guffetto. Chi è? Guffetto. Tutto mormita, sì. Mi sento stracca proprio. Rilassata. Io crocro. Ehi, cos'è su Ragheni? Io sono anziano, non so come te, no? Già lo so che sei pensionato per te, papà Napoli. Quindi 3 miglia euro di pensione. Già si è a Cacità Duveggia, con Savini e Di Maio, 5 stelle. Diglielo, Leonci. Avvero, magari a pigliare cazzo quella cosa lì, grazie. Sei stato cazzo l'uomo più ricco del mondo, pigliando quella cifra lì. Oh, grazie, ma è passato un tipo che aveva un sacco di belle tenute ai baldi. Non so cosa gli fa, boh. Ma la fredda culo. Oh, signore, qui c'è ne va domani ci si fa un ciclone. Dall'aria già sembra, C'è caldo di suo, se piove, fa... Ehi, a caldo già c'è caldo, l'aria già è calda. Domani ha detto che fa di fea, piove, Leo, tu cosa ne sai? Niente ti ha detto Bernacca. Leoncino, bucato. No, mi stavo attrezzando i pantaloni. E perché cosa sapevi? La fracchetta aperta, brabe. E avevo la braghetta aperta. Quindi lo passi a Antonella. Ui, per carità. Luca, è me, tracciatoci. Sì. di mischia. Cosa stai facendo? Ma cucato? Ma cosa, si occupa di andare a casa. Qui si è cucato. Sto recuperando qualche ora che ero stanco. Adesso mi sto meglio, dai. Ehi, hai fatto bene, e beh, sei andato pure a faccio grandissimo, non prendi qua. Ma fa bene il pisolino, è abituato. Io già non sono abituato. Ho provato, non è per me, non ci riesco. Ma sta imburato questi duretti, mi sono buttato la gabbia e mi guardo la TV. Sì, oh, grazie, ho provato i decoder tuoi, perché uno l'ho regalato, quello me li ha regalato, l'ho regalato, un parente di mamma, però qua la stazione mi trova tipo 80 canali, però non mi dà Mediaset, siccome mi hanno regalato un televisore a schermo piatto, nuovo me, e praticamente quando metto di TV, pac, si spegne, funziona tutto, tranne che il digitale incorporato. E lo volevo usare con un decoder esterno, ma non mi dà Mediaset. Non so cosa dire. Quando metto a posto, se è trovogliato, se non si danno i lampati, e li dopo. Appena li trovo, se ci sono ancora, intanto non me ne posso usare. Ma erano funzionanti quelli, ce li avevo io qua, mi funzionavano più. Ehi, aspetta. Ehi, grazie, ti ho detto che funzionano, solo che non da Mediaset. Quando metto a posto in garage, se troppo gli altri, così lo sappiamo, non lo posso fare. Però, uno campano, perché c'è il televisore, e dice, ma non però è abbinato al televisore, lo qua, è tutto completo qui. Faccio le campane. Vado al bagno in cinti, mi sono giocato in campagna. Un carrello, tutto completo. Solo il bufufu che mi ho tenuto qua in casa, però non l'ho piazzato, non è piazzato. Il bufuto? Quelle colonnine piccole, e questa è quella grande che c'è quel buco a trombetta, come si chiama? Ah, ho capito, su bufufu. Che fa effetto il cinema, in quello che c'è stato in campagna già era tutto collegato, ma per adottarsi con i figli, e poi quando lo accendevo sembrava al cinema, si rimbombava tutto, già mi va bene normale, solo che quello lì me l'aveva regalato mia figlia e non voleva darla a nessuno, se non l'aveva figliato voi. Con il televisore nuovo che c'ho si intende abbastanza benissimo. Dunque non ho bisogno di attaccarlo qualcuno. Va bene, lo tengo perché me l'ha regalato lì. A chi mi l'ha domandato, la stavo cercando di conservarlo. Scusi, già conservato. Non era molto convinta, ma già ce l'ho conservato. No, quello lì, quello. Su bubu fa pure io. Il come si chiama? Home Theater. Sono pure io, adesso caburumbe. Ci sono 5 casse, ce l'ho qua in cameretta, me l'hanno regalato. 5 casse, 5, è il subwoofer, è il subwoofer. Anche questo c'ha 6 casse piccoline, sono potenti. Sei ne ha, grigio, e poi il televisore, un salone grande, è una stanza normale, guarda, perlomeno io la penso così. Ma questo già è abbastanza potente, ha un volume allucinante. Lo sto usando come radio, dai, cameretta. Muovendo la posso staccare un televisore, guardo i film, questa legge DVD, DVX, c'ha l'ingresso USB, no, un po' di cose, un po'. Eia, no io non ne attacco, mi chiamano anzi, balletta, se si può pure, un ragione di pensarone. Cazzo, mi la suggerne, noi l'alto mi vuole. Mi la crebbene la resta, perché c'ha due colonine grandi. E lei sono potenti. Però no, lui. Boh. Anzi, uno di chi si buffo, buffo, cosa cavolo si chiama? Tempo indietro ce l'avevo portato a Rubiduccio. Nuovo, nuovo, ma che se chi c'era nito, quello me l'avevano regalato. Però l'ho provato, ha detto una cosa, lei se l'aveva buttato a Rubiduccio. Lei oggi, Luca ha caduto su. Però stavo parlando con Marina. Comunque, questo è impegno. Guarda, io avevo un bel, anche ne avevo uno piccolino, l'ho regalato di digitale, ne avevo un altro ancora, l'ho regalato. Poi ne avevo uno mio, l'avevo pagato, me lo sono venduto, con il televisore, e tutti gli altri, ne ho due a casa di decoder, solo che non mi dà Mediaset. Ma noi che dipende dall'antenna. Cosa? No, con gli altri vedo tutti i canali. C'è un televisore a schermo piatto a casa. Cosa è in colpotte con tutti i canali, dalla Rai, media, tutto lo vedo. E come mai non dice no, non lo vedo. Strano. Vorrà configurare, ma non c'è poco menu, capito? Ha poco menu quel decoder. I canali l'hai messo in automatico? Sì, hai detto 70, quasi 80. Qua funzionava di bene. In qualsiasi camera dove lo mettevo. Anche un quell'antenna piccolina portatile che ha giubilato da Reginice. Tirava dappertutto. Ma non è che scatti che vai, no? No, ho provato un altro televisore, mi fa lo stesso problema. Niente, qua. Perché a me una volta mi ricordo non funzionava uno. Dice, e allora avevo comprato la presa a scatti nuova e dipendeva dalla presa a scatti. Poi l'ho guardata con la presa a scatti, in effetti c'erano due alettine che uscivano a più di metà fuori dalla sede sua, capito? E avevo pensato che era dai Ghibli, allora avevo preso la presa a scatti nuova e gli date la via lampada. No, l'ho provato in due televisioni, mi fa lo stesso problema. Le televisioni funzionano. Non so cosa dire. Non si può controllare, no. Magari c'è qualche condensatore mezzo andato. No, solo dovrei aprirli. Lo dovrei aprire e vedere un po'. Vorrei un decoder che almeno mi faccia la scansione dei canali, che mi memorizzi prima i sei numeri, cioè i primi sei canali. Come sai, i 6 o gli 8 canali, se non mi ricordo, anche Videolina, c'è dalla Rai, a Medias, poi l'8, 9 e 10, poi degli altri cosa me ne frega. Gli altri si memorizza solo tipo di Max, 59 e tutti gli altri. Prova a guardarlo, o se lo procuro, se c'è ancora in garage, quegli altri che c'avevo già, te li do, altrimenti non me ne posso dire. C'avevo anche un coso, come si chiama, dove messo il CD, il DVD, e l'ho regalato quello lì da poco, ce l'avevo sempre in armadio, in punta dritta, punta sinistra. Ora arriva l'amica di mia figlia e la dice, voi ce lo porto a casa, e dammelo, e ve la gente, ve l'ho chiesto mi avanti io. E mi ha detto, cazzo, sei un treno, funziona benissimo, sei nuovo. Quello l'avevo comprato, stesso, 20 euro l'avevo pagato. Nuovo, nuovo, il salone cosa me ne facevo? Ce l'ho in salone, ce l'ho anche in campagna. Poi rimane così, te poi capisci. E gliel'avevo regalato. Ce l'ho pure io, adesso ho il DVD a casa, mi hanno regalato, ma cosa non t'hanno invitato? Un po' di anni, tipo... almeno, fai un 10 anni e funziona la tipa radio. cioè metti i CD da di musica e lo ascolti. E anche questo vecchio io qua in casa, il nuovo lupo, non mi tratto quasi mai, solo lo lascio, perché qualche volta mi guardo qualche film di qui, col dischetto, anche. Ma da dove finisci? Ma io non lo so che ancora a metà mica, a pezzi mio per la creazione mia, a metà da finire. Ui, per carità. Mio genero sta vendendo la PlayStation, due mi sembra ce ne sono. E anche i film ci sono, mi sembra 80 giochi, non film, giochi, 80 giochi. Già, 80 dischetti e due mi sembra PlayStation, 150 euro sta vendendo. Sì, signore, che li tratta? Un idrato, ma questo qua il mio fa anche da radio, è quel lettore, un Fiat, fa da radio, diciamo di funzioni, mi piace, ti rimando delle comande, aspetta, la foto. Ehi, io, Leoncino, ci sì. Roberto. Aspetta, grazie, mi assento 10 minuti. Ehi, ok, va bene. Grazie, buonasera. Aspetta che su Messenger ti mando a uno, guardatelo. Oh, arrivato te. E Luca, ma niente qui. Chi è che fischi? Ti amico, come andiamo? Ciao Mari, e beh, mormito io. Ti rimane seduto, non ti muove, che ti sento male se no. Cosa hai detto? Mari! Ti sento male, grazie. Mi senti male? Non ti sento bene, sei disturbato, sì. Luca, ma che giù sì? E beh, gufo, dormitaci. No, gli è andato a mangiare. No, come si dice, mi stavo per misurare. Cioè, uso per portare la Madonna. Per vedere se abbina va bene. Marina mi ha detto che abbina va bene, stavo uscendo a comprare un paio di scarpe bianche. Ovvio, un po' più eleganti, Provala questo che c'è qua di fronte. Come ti si chiama? C'ha gli sconti, ha messo. Pittor Rosso. Pittor Rosso, sì, aspetta. Luca. Grazie, graziano.